e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sono le 2 del mattino, le 2 in punto per essere precisi. Stiamo festeggiando questo primo giorno dell'anno, questo 2019 che abbiamo appena inaugurato, e questo 2018, questo 31 dicembre che abbiamo lasciato, perché ovviamente la serata è partita intorno alle 8:30 e terminerà alle 6 del mattino, per cui facciamo a cavallo tra il 31 e l'1 ovviamente. Continuiamo con le nostre interviste con i nostri ospiti qui in Risto Radio Convento. Abbiamo degli amici che vengono da lontano, abbastanza lontano, e andiamo a conoscerli. Vai, partiamo con le presentazioni, con i vostri nomi. Ciao, sono Antonella. Antonella, benvenuta. Ciao, sono Cristian. Cristian. Ciao, sono Simona. Ok, Simona, voi ragazzi da che ora siete qui? Cioè, che formula avete scelto? Cenone, cenino, ingresso? Abbiamo scelto cenone. Ah, cenone, quindi ve la siete goduta dall'inizio. Compagni, una bella lavorata. Dall'inizio 12. Alla fine. 12 siete? Sì, sì. Ok, dicevamo che voi venite da lontano, ma non troppo, però insomma, per farsi una serata diciamo che è lontano. Venite da? Da Modena. Da Modena, ok, tutti e tre? Sì. Ok, tavolata da 12 di amici, compagni, coppie, come funziona? Amici, coppie, un po' misto. Un po' di tutto. Sì. Cosa fate nella vita di bello a Modena? Lavoriamo. O non so se lavorate lì, se state in zona. Sì, lavoriamo. Cosa fate? Commesse. Commesse insieme? Ah, colleghi di lavoro? Ah, dicono, mi dice la bruciata. Ma lui è appassionatissimo della bruciata. Magari ha preso una casa in zona. Ma può essere, c'ha il business della bruciata. No. Lo sanno. Ok, allora, diciamo, commesse, quindi colleghe, tu? Io ragazzo di lei. Ah, è un bel lavoro anche quello, no? Paga bene? Veramente io devo pagare. Ah, paghi tu? Cioè, sì. Quindi paghi tu per fare il tuo lavoro? Sì. Cioè, tu come lavoro hai proprio sulla carta d'identità il suo ragazzo. Esatto. E devi pagare per essere il suo ragazzo, quindi paghi per lavorare. E fra 6 mesi mi sposerò anche con lei. Sarà peggio. Doppio lavoro, perché fai il ragazzo e il marito. Sì. Cavolo, ma sei sicuro di aver fatto la scelta giusta? Ah, ok, no, perché qui sembra che hai sovvertito tutte le consuetudini. E tu, raccontaci come hai fatto a farti, come dire, a trovare un uomo che lavora per te e addirittura a farti pagare per questo lavoro. Cioè, che poteri hai, che poteri magici hai? Hai questo cerchietto che ti dà con le orecchie? Sì, il cerchietto è magico. È magico, che poteri ha il cerchietto? Racconta. Non lo so, è il tuo, l'hai comprato tu, ce lo devi dire tu. Hai il potere di farmi pagare tutto. Incredibile, ma cioè, l'hai trovato solo tu o in commercio? Perché secondo me ci sono alcune forse molte ascoltatrici interessate alla cosa. Secondo me è l'unico. Ah, è l'unico, l'hanno fatto su misura per te. L'hanno fatto su misura. Anche la stessa altezza. Ah, anche, certo. La cosa che mi sorprende è che lui è bello sorridente, lui è contento di questa vita. Quindi io si vede che funziona davvero, che ha un fluido particolare. Beata lui. Beata, anche beata te, direi. Beata te. E in tutto questo, aspetto, se Antonello o Simona non mi... Ecco, Simona, tiene, cosa fai tu? Io faccio l'invitata. Suoni il violino. Ah no, l'invitata. L'invitata. Tu assaggi i piatti. Io sono invitata, mangio, bevo, sono invitata e basta. Che anche quello non è un brutto lavoro, è un bel lavoro, è un duro lavoro. È un duro lavoro, perché qualcuno bisogna garantire la qualità, bisogna dire sì, no, non è facile. Controllare che vada tutto a buon fine. Non è facile. E tu svelaci un po' in retroscena, hai provato anche tu il cerchietto, ha funzionato? No, non potrei mai. Non potresti? No, il cerchietto è solo roba sua. Quindi è veramente su misura, fatto su misura, ad persona. L'anto cerchietto. Mi piace l'anto cerchietto. Bello, bello, bello. Beh, tu sei riuscita con i tuoi poteri standard. Io poteri senza cerchietto. Ce l'hai fatta lo stesso? A trovare anche tu qualcuno? No, che... no. Io non mi sposo. No, non si sposa. Libera. Sì. Per scelta, per status. Ma non si sa. Ah, comunque ti guardi intorno. Ti guardi intorno. Magari tua. Grazie a Dio. Su quello abbiamo il libero arbitrio ancora per un po', quindi. Cosa fai? Sei una che cerca, sei una che osserva o che stai bene così? No, non cerco neanche, sto anche bene così delle volte. Stai anche bene così. Diciamo che sei aperta a quello che la vita e il destino ti daranno. Viene. Quello che viene, viene. Perfetto. Allora, facciamo così, dille un buon motivo per cui dovrebbe fidanzarsi. Perché devi trovare uno ricco che ti mantiene. Perfetto, mi piace. I sentimenti, vedi, i sentimenti prima di tutto. I sentimenti prima di tutto sono le cose importanti. È bello iniziare anche con messaggi positivi questo 2019. È bello trasmettere a tutti questi messaggi. Trovate quello ricco perché è difficile da trovare. Beh, è vero, vero. Con i tempi, con i tempi che corrono. Con i tempi. Non può prendere il mio stesso stipendio, se no non giusto, ce la possiamo giusto, fare. Non ragazzi, può arrivare. Se dopo. In linea c'è qualche Enrico che vuole Simona, provincia di Modena. Vabbè, ma c'è nel senso, c'è un come dire, c'è una fascia in cui dici sì, no? O... Al cerchietto di diamanti dice di sì. Ah, quindi. Cerchietto e collane di diamanti. Cerchietto. Quindi non sotto il diamante. Come livello di ricchezza. Infatti si vede che c'è molta povertà perché faccio fatica per quello. Certo, certo. Beh, insomma, crisi, tempi che corrono, l'IVA al 23%, insomma, tante cose. È dura, è dura. Ce la faremo, dai. Sono certo. Fiduciosa per il 2019. Vedrai che tu credici sempre. Smetterò di andare a lavorare, di svegliarmi addirittura. Alle 7 di mattina. Questa è la speranza. Vabbè, ognuno c'ha gli obiettivi che si pone e questo vedrà che ce la puoi fare. Tu continua a crederci. Quando non hai dei problemi puoi anche dire queste cose qua. Dai. Ma sì, alla fine si scherza su tutto. Ok, volete dire qualcosa? Volete salutare qualcuno? Mandare un messaggio sfruttando il microfono? Beh, salutiamo i nostri amici che staranno in giro qua nel locale. Certo. E ancora auguri di buon anno a tutti quanti e famiglie e amici. Buon divertimento. Ciao Gio, auguri. Da brava, lei saluta da vetro a vetro, così rende partecipi anche gli altri. Bravissima. Ok, grazie a voi ragazzi, speriamo abbiate passato una bella serata, vi siate divertiti, avete ancora tempo per divertirvi, se non certo. Vi siete divertiti, no, perché sera. c'è tempo ancora. Sei di mattina. C'è anche domani. Lui fa l'after hour. Sì, fa direttamente al pranzo del primo. Va bene, grazie ancora ragazzi e di nuovo buon divertimento. Ciao. Ciao, grazie.